Matteo Bussola e Federico Taddia. Buona domenica e ben ritrovati ai Padri Eterni, ogni settimana qua in Insieme, ancora con queste puntate particolari, puntate da remoto, io da casa mia, Matteo Bussola da casa sua. Ciao Matteo! Ciao Fede, buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori. Intanto come stai? Come prosegue questa quarantena in famiglia? Guarda Fede, mi piacerebbe avere brillanti novità, ma in realtà è stata una settimana esattamente uguale alla scorsa, che credo che sia quello che ti direbbero la maggior parte delle famiglie e dei padri italiani. Allora, abbiamo ovviamente dei punti di osservazione privilegiati, no? Che sono un po' i nostri figli, i miei un po' più grandi, le tue un po' più piccole, ma si stanno abituando le ragazze a questa situazione? Ma devo dire sì, e in maniera sorprendente. La cosa che sta diventando più difficile da gestire, devo dire, e credo che sia così in generale per tutti i bambini e le bambine, è vedere che la primavera esplode fuori dalla porta, fuori dalle finestre, e non poter andare al parco giochi, non potersi incontrare con gli amichetti e le amichette. Ecco. Però a parte questo, devo dire che sono fra noi sono quelle che l'hanno presa assolutamente meglio. Come sempre anche oggi vi daremo un po' di dritte, un po' di consigli, ascolteremo anche tante storie in queste settimane, tra l'altro ogni mattina alle 10.30 insieme ad Alessandro Milan e a Leonardo Manera abbiamo dato tantissime dritte per giochi da fare in casa. Radio24.it, il nostro sito, da lì potrete riascoltare la puntata. Ma andiamo con il primo ospite, che insomma, visto che ci stiamo lamentando dello stare in casa, ci stiamo lamentando degli spazi stretti che abbiamo, beh, la loro è una situazione molto particolare. Lui si chiama Claudio e fa il vigile urbano, Irene la moglie che è un'infermiera, quindi comunque due lavori che continuano, due occupazioni che li portano anche fuori di casa, ma in casa sono rimasti i figli, che sono ben 8, quindi 10 persone chiuse in casa. Ciao Claudio, buona domenica. Ciao, buona domenica a tutti. Sì, è così da un po' di giorni. Ma ed è una festa continua o è un litigio continuo? Come si fa a convivere in 10 persone? La convivenza è come prima, con tutto esponenziale, cioè il caos è di più, la felicità è di più, i contrasti sono di più, le gioie sono di più, è tutto di più. È come anche il più, è il tempo che stiamo stretti, e quello che diminuisce semmai è un po' lo spazio quotidiano, soprattutto la mattina, perché prima stavo sempre a scuola, però andiamo avanti, insomma. Però va bene. Come vi siete organizzati? Eh sì, questa è stata la chiave di volta. La prima settimana è stato solo un caos, perché per loro era come una vacanza, e noi boccheggiavamo per le corse quotidiane al lavoro. Poi a un certo punto mia moglie ha avuto l'idea di fare, come avevamo già provato a fare un tempo, il famoso cartellone con la divisione dei compiti, che avevamo già messo su qualche anno fa, ma allora erano più piccoli, aveva retto poco, e invece si è dimostrato un valido strumento, perché dividendo i compiti ogni giorno qualcuno ha da fare qualcosa, soprattutto sulla apparecchiare, sparecchiare, aiutare in casa a fare le cose normali che poi farebbero anche, hanno fatto anche prima, però quando potevano e quando avevano tempo, quando venivano richiamati. Adesso così si organizzano un pochettino rispetto al cartellone, qualche volta fanno anche dei cambi, delle cose, ovviamente non funziona sempre e comunque è così, un canovaccio su cui improvvisare, però almeno un piccolo aiuto ce lo siamo dato. Claudio, senti, no, a parte, io ci tenevo a dirti che tu da oggi sei il mio eroe personale, perché io di figlie ne ho solo 3 e faccio già fatica, non oso immaginare con 8. Ma mi interessava, cioè, riuscite sempre a far rispettare orari e compiti, o c'è fra gli 8 ogni tanto qualcuno che si ribella? E in quel caso, se date, come dire, la sommossa con autorità, o trovate un ragionevole compromesso, o cosa? Ma guarda, la realtà è che noi cerchiamo da sempre, ma in maniera abbastanza fallace, di inquadrare e di tenere delle regole. In realtà le regole servono soltanto così, come bozza, perché la verità è che loro sono 8 singoli, sono 8 persone, come noi siamo 2 persone, a nessuno fa piacere essere schematizzati. Lo schema serve solo per iniziare, poi in realtà funziona un giorno sì, un giorno no, e non sempre con gli stessi non funziona. La cosa importante è ricordarsi che loro sono persone, quindi oggi a te ti posso dare una punizione perché è sgarrato, ma domani ti verrò incontro e cerchi di essere più morbido, e viceversa al contrario con un altro e con un'altra. Poi in me sono da 15 anni fino a un anno e mezzo, quindi non potrei gestire l'eventuale ribellione allo stesso modo, perché sono ribellioni di fasce diverse, c'è un'ampia gamma di scelta. La cosa più bella è che io non so fare il padre di nessuno di loro, cioè, sto imparando tutto quello che ho imparato con i primi, adesso già non lo riesco più ad applicare perché sono diversi, sono persone diverse, e quindi questa è la cosa più importante da imparare, di non pretendere di saper fare i genitori. Se tu ci impazzisci con tre, in realtà non è che dal quarto in poi è esponenziale, cambia solo il sonno, diminuisce solo il sonno la notte, per il resto non peggiora così tanto. Poi alla fine io pensavo peggio, tutto sommato. In questo periodo dove tutto è cambiato anche il tuo modo di essere padre? Sicuramente deve cambiare, perché quello che ti ho appena detto, cioè che il fatto che di ricordarsi sempre che hai davanti una persona che è diversa dagli altri, ciascuno è diverso, ciascuno ha il suo carattere, la sua vita, eccetera, nonostante che siamo tutti una famiglia, e questo già nella vita normale te lo devi ricordare, ma in questa situazione esplode più volte al giorno, esplode per loro, esplode per noi. Quindi anche le nostre tensioni sono tutte più compresse, siamo come in una pentola a pressione in pratica, però non è colpa di nessuno, cioè è una cosa che aiuta sicuramente a cercare nuove vie. La cosa che ci sta stupendo sia a me che a mia moglie è che in qualche modo tutto questo sta passando e loro lo accettano, un po' perché non è imposto da noi, è imposto un po' da sopra, e come un'occasione per la famiglia. Questo è la cosa che ci porteremo più avanti nel tempo, è che questa è la famiglia, essere una famiglia è più importante che non riuscire a rispettare gli orari o a rispettare le regole. Claudio, senti, come sopravvivete alla scuola online, alle app tutte diverse, che in genere ogni scuola usa la sua, no? Alle chat di classe, cioè, puoi darci qualche consiglio, tu che di figli ne hai 8, su come non impazzire? Allora, no, tranquilli, impazzite. Potete impazzire liberamente, siate liberi di impazzire, lasciatevi questa cosa, perché tanto si impazzisce. Io sto vedendo genitori nelle chat dei classi che impazziscono perché un solo figlio ha già 3 chat diverse, ha già 3 piattaforme di scuola diverse. Io ne ho 8, anche soltanto 3 che stanno alle medie, ciascuno ha 3 piattaforme diverse, fatevi un conto, quindi si impazzisce, non c'è poco da fare. E non ci stiamo riuscendo, è sicuramente la cosa più, il punto nevralgico. Qui la mattina è un caos, perché poi non so, io avevo un computer in casa, non so voi quanti ne avete, di sicuro non ne avevo 3, non ne avevo 8, non ne avevo 6, che sono quelli che servono, ne servirebbero 6 adesso, io non ce ne avevo. Uno me l'hanno prestato, ho ricevuto una telefonata di un negozio che adesso è chiuso, un negozio di informatica, che mi ha detto te lo presto io. E mi ha prestato un computer, così, cioè, perché ha saputo tramite giornali che noi stiamo così, e mi ha potuto prestare un computer. Benedizioni, io devo dire grazie. È una grazia. Adesso la scuola si sta muovendo per cercare di fornirci un altro, a noi e ad altre famiglie che hanno più figli, che hanno difficoltà. Nessuno era preparato a una situazione del genere, tanto meno i professori che stanno improvvisando come possono, per cui sobbarcano di compiti, ampliano le piattaforme, quelli che sono più bravi aumentano di più, capito? Invece di dire forse è il caso che... E così si schiatta fondamentalmente, però andiamo così. Cioè, non è la cosa più importante della giornata, è solo la più complicata, ecco questo. Facciamo davvero nostro il tuo messaggio. Grazie davvero, Claudio, per aver condiviso con noi la tua storia. Un saluto a tua moglie, un saluto a tutti gli 8 i tuoi figli. Ciao e grazie. Esatto, grazie a voi. Grazie, grazie Claudio. Grazie. Ciao, ciao. Noi ci fermiamo nel momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. Eccoci qua ancora ai Padri Eterni e adesso abbiamo il piacere di avere un ospite particolare. Era il 29 marzo del 2003 quando morì Carlo Urbani, il medico, il primo a identificare la SARS. E ovviamente un'epidemia, ovviamente ci porta alla strettissima attualità, ma ogni anno la figura di Carlo viene ricordata perché era un grande medico e perché era anche un grande uomo, e abbiamo il piacere di avere qua con noi il figlio Luca, Luca Urbani. Ciao Luca, buona domenica. Ciao, ciao, grazie a voi anche. Credo che ogni anno sia un anniversario particolare, ma forse quest'anno è stato più particolare del solito. Sì, sì, sì, ovviamente quest'anno il ricordo è stato ancora più forte, perché poi soprattutto perché quello che è successo nel 2003 è successo proprio in questo periodo, quindi è stato veramente come ritornare a 17 anni fa, più che per me, per mia madre, perché ero piccolo quindi ricordo poco, però per mia madre e mio fratello è stato veramente come rivivere i momenti di quel periodo, e quindi è stato molto molto duro e molto forte. Tu Luca avevi 8 anni, eri un bambino quando è morto papà. Sì. E chi è per te oggi Carlo Urbani? Allora, per me, io ero piccolo, quindi a quel tempo non lo vedevo come medico, lo vedevo solamente come padre, e ovviamente per il lavoro che faceva lui a casa stava molto poco, partiva molto spesso per le missioni, andava in giro per il mondo a lavorare per prima i Medici Senza Frontiere e poi l'OMS, quindi a casa c'era poco, però quei pochi momenti, quei pochi giorni che stava a casa riusciva a recuperare tutti i giorni di assenza, tutti i giorni che non c'era stato, e nonostante partiva sempre è sempre riuscito a farsi sentire presente, a far sentire il suo affetto verso di noi e a farci stare bene, quindi io lo ricordo soprattutto come un grande padre, perché veramente è riuscito a fare tutto, a conciliare il lavoro con la famiglia. Luca, senti, tu hai detto che per voi è stato in un certo senso come tornare indietro nel tempo, no? Avendolo già visto succedere come famiglia, avendolo già sperimentato sulla vostra pelle nella maniera peggiore, cosa avete pensato alle prime avvisaglie di questa pandemia? Cioè che si stesse sottovalutando la cosa, che le misure fossero corrette? Avete avuto la sensazione che la lezione di vostro padre fosse stata dimenticata? Sì, un po' sì, perché anche in quel tempo all'inizio i governi, soprattutto i governi asiatici, sottovalutavano un po' la cosa, e ai vari appelli di mio padre loro dicevano sempre che non c'era bisogno di chiudere tutto, e alla fine dopo molte email, dopo aver provato molte volte a convincere i governi, mio padre è riuscito a far chiudere le frontiere, a mettere in atto questo piano, questo piano di reazione per quella epidemia. E sì, secondo noi un po' c'è stato un po' di ritardo nella reazione, parlo per l'Italia, nel reagire a questa epidemia. Se si fosse fatto tutto con qualche settimana di anticipo, secondo noi la situazione era diversa, però le reazioni sono state le stesse. Anche 17 anni fa i governi sottovalutarono un po' la cosa. Luca, esiste l'Associazione Italiana Carlo Urbani, che anche ha attivato una raccolta di fondi proprio per l'emergenza Covid-19. Cosa fate come associazione? Sì, allora, l'associazione è nata subito dopo la morte di mio padre, da un'idea di amici e colleghi che volevano portare avanti gli ideali di mio padre, l'esempio che mio padre ci ha lasciato, e quindi hanno creato questa associazione di cui ora mio fratello maggiore è presidente, Tommaso, io sono segretario e ci sono anche amici di mio padre e colleghi, e oltre ad avere vari progetti in varie parti del mondo, come per esempio in Senegal, in Pemba, e adesso in questa situazione abbiamo voluto avviare questa raccolta fondi per poter aiutare l'ospedale di Iesi, che tra l'altro è intitolato a mio padre, e quindi abbiamo voluto avviare questa raccolta fondi per poter fare qualcosa anche noi, per poter aiutare a modo nostro l'ospedale, e devo dire che sta andando molto molto bene. Senti, tu dicevi prima che come dire, avete avuto la sensazione come famiglia che forse si sia agito un po' in ritardo. Uno dei più grandi meriti di tuo padre in effetti è stato proprio quello di riuscire a convincere i governi a chiudere le frontiere, no? Che cosa è accaduto in questi 17 anni? Cioè, secondo te le persone hanno perso forse un po' di fiducia nella scienza? Mi riferisco al fatto che i principali virologi sono stati inizialmente inascoltati. Sì, infatti mio padre era nattissimo con i governi. Mia madre racconta che a casa, quando tornava a casa, parlava di questo e di come i governi non lo volevano ascoltare, nonostante lui dicesse che era molto pericoloso non far niente. E non so perché anche in questo caso, nonostante c'è stata l'esperienza appunto della SARS, anche in questo caso i governi hanno voluto temporeggiare. Credo che ce lo siamo chiesti tutti quanti, però ci saranno motivi, non lo so, però sì, è stato veramente un peccato, perché se quello che ha fatto mio padre a quanto pare non è stato abbastanza d'esempio. Luca, come già ci hai detto, appunto, tu eri un bambino, avevi 8 anni, ma in questi anni hai studiato la figura di tuo padre? Sì, ovviamente, visto che quel tempo ero piccolo, quindi non mi rendevo conto di quello che era successo. Poi crescendo ho capito quello che aveva veramente fatto e ne vado molto fiero, e infatti mi ha trasmesso tutti i suoi ideali, e infatti per questo sto studiando, per poter lavorare poi in futuro con le ONG e aiutare e lavorare nei paesi che hanno veramente bisogno. E questo per esempio lo fa mio fratello, lavora per un'ONG italiana e ora è appena tornato dalla missione in Nigeria. Prima era stato in Iraq e poi ancora prima in Sud Sudan, e anche io voglio intraprendere questa strada. Uno dei drammi di questi giorni, di queste settimane che leggiamo, no, sui giornali e tante testimonianze, è quello di figli che non riescono a salutare i genitori, no? Una volta che sono all'ospedale, una volta che sono intubati, che è un po' la cosa che è successa anche a voi, no? Quell'ultimo ciao che avete potuto dare solo al telefono. L'hai rivissuto in questi giorni quel momento? Sì, devo dire la verità che con tutte le storie che stanno succedendo in questi giorni ho ripensato molto a quel periodo, e mi ha fatto un po' male, perché anche noi l'ultima volta che abbiamo visto mio padre è stato la mattina che partisse per Bangkok e ci ha portato a scuola, però anche già lì ci aveva detto che non ci poteva abbracciare, però senza dirci il motivo. E ci ha lasciato a scuola e poi è partito, e poi l'abbiamo risentito per telefono per darci l'ultimo saluto a nostra insaputa, e mi ricordo, questo è un particolare che mi ricordo molto, che aveva una voce molto debole e fa veramente ripensarci, fa male. E anche mia madre, che era rimasta lì con lui all'ospedale, non poteva stargli vicino, ma ci parlava da un vetro, da lontano, con la mascherina, tutte coperte, quindi anche se lei era lì non poteva veramente parlarci, per non essere contagiata. Certo. Luca, grazie davvero per aver condiviso con noi questa storia. Sappiamo anche che non è facile, però sappiamo anche che sia importantissimo, credo, raccontare, no? Sì. Raccontare chi è, sì. Carlo, sì. Urbani. Ricordiamo il sito della vostra associazione, che è aiku.it. Grazie davvero per il lavoro che fate di diffusione. Grazie a voi per avermi invitato. Ciao Luca, buona domenica. Grazie. Adesso ci fermiamo. Ciao Luca. Adesso ci fermiamo, è il momento del meteo e della pubblicità, poi ancora qua con i Padri Eterni. una webcam puntata sul professore e gli studenti universitari seguono le lezioni da casa. E addio vecchio pendei affollati, quest'anno si fanno con le visite virtuali. E ancora ciao ciao, aule gremite di genitori e parenti in lacrime per la discussione della tesi che ora si fa davanti ad un PC dal divano del salotto. Didattica a distanza ai tempi del coronavirus e atenei chiusi. Dopo il ciclo di podcast Diverso il futuro e oltre dedicato alla scuola, inauguriamo una serie di puntate dedicate all'università che ha dovuto reinventarsi. Sono Maria Piera Ceci e giovedì 9 aprile avverso il futuro e oltre ne parliamo con Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano e presidente della Conferenza dei Rettori, naturalmente su radio24.it. Aiutiamo. Il Sole 24 Ore insieme a Radio 24 e Radio Cor sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Alessandria ha bisogno di te e per noi è la notizia più importante di oggi. L'azienda ospedaliera nazionale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, con i suoi medici e tutto il suo personale, sta lavorando senza sosta per fronteggiare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Hashtag insieme ce la faremo, hashtag sole per ospedale Alessandria. Per tutte le info s24ore.it/aiutiamo. Padri Eterni. Sad and when you're lonely and you haven't got a friend, just remember the death is not the end. And all that you held sacred falls down and does not mend. Just remember that death is not the end. Not the end, not the end. Just remember that death is not the end. Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, eccoci qua con i Padri Eterni, radio24.it e come sempre vi ricordo il nostro sito da dove puoi poter scaricare il podcast e riascoltare la puntata, ci potete anche scrivere padrieterni@radio24.it, l'indirizzo della nostra redazione, ma ci trovate anche sui social, nella nostra pagina ufficiale di Facebook, i Padri Eterni di Radio 24. Abbiamo anticipato un po' il tema poco fa, intervistando Luca, il figlio di Carlo Urbani, e il tema della sofferenza, il tema del lutto. E la parola lutto sta risuonando molto nelle nostre vite, nella nostra quotidianità, alle orecchie dei nostri figli, e soprattutto i più piccoli si trovano a vivere anche la sofferenza magari indiretta per quello che sentono, per quello che vedono in televisione, ma poi c'è anche la sofferenza diretta di chi perde un parente, di chi perde un nonno. E davanti a tutto questo alcune famiglie si sono mosse, si sono preoccupate, si sono rivolti a degli psicologi e abbiamo trovato un bellissimo articolo su Piacenza Sera .it, dove sono state coinvolte le psicologhe di una cooperativa sociale che si chiama TICE, e abbiamo il piacere di avere qua con noi Francesca Cavallini, che è docente di psicologia all'Università di Parma e presidente appunto di TICE. Ciao Francesca, buona domenica. Ciao, buona domenica a voi. Benvenuta Francesca. Grazie. Molte famiglie si sono rivolte appunto per confrontarsi, no, sul tema del come comunicare al proprio figlio il dolore di una perdita. E, non so, esiste una risposta a questa domanda? Qual è stato il suggerimento che voi avete dato? Allora, una prima cosa che mi viene da dirvi proprio a voi Padri Eterni è che sono stati tanti papà a scriverci, tanti papà che sono magari hanno perso proprio il loro papà e ci hanno chiesto come raccontarlo ai bambini. Una prima riflessione riguarda proprio l'età dei bambini. mi sento di affermare che fino ai 3-4 anni il bambino non ha una comprensione di che cosa significhi la morte, non riesce a concettualizzare questa parola. Fino a 4 anni quello a cui si espone il bambino è soprattutto il linguaggio sociale, cioè il bambino impara ad essere triste quando gli altri sono tristi, quindi in questo caso la comunicazione deve essere sicuramente breve, chiara, sincera e deve non aspettarsi nel bimbo una reazione comune come quella che hanno gli adulti. Quindi il bambino potrebbe avere una reazione motoria, scappare, piangere e dopo poco riprendere a giocare. Tanto di quello che dobbiamo condividere è anticipargli che magari qualche volta ci vedrà un po' piangere, un po' tristi, che però lo abbracceremo e poi torneremo contenti grazie a lui. Quindi sotto i 4 anni è abbastanza gestibile. Quando il bambino diventa più grande, che inizia a comprendere il concetto di morte, che la morte significa mai più non vedere mai più il nonno, non andare più in giro con lui, diventa più complesso per il genitore, che viene esposto anche alla carica emotiva che ha il bambino. Anche in questo caso è molto importante, e qui faccio un po' riferimento, se me lo concedete, proprio anche alle morti da polmonite per Covid-19, è importante che non sia un fulmine a ciel sereno, cioè qualora siamo in presenza di un nonno ricoverato è opportuno informare il bimbo che il nonno è in ospedale, che lo stanno curando, che stanno facendo delle cose per farlo stare meglio, però avvisarlo anche quando le cose vanno peggio. Quindi alla domanda gli diciamo no che è in ospedale, il consiglio, al di là di casi ovviamente specifici, è sì. Una volta che si verifica l'episodio della morte, nello sfortunato evento, è importante che prima il genitore abbia qualche minuto per sé per valutare il suo stato emotivo, e quando è pronto, io lascio sempre questo consiglio, quando è pronto ad essere il genitore che vorrebbe che fosse suo figlio, cioè quello che i bambini imparano quando noi gli comunichiamo la morte è a comunicare a loro volta la morte. Non possiamo mai smettere di essere genitori neanche in quel momento, e essere brevi, seri, mai mentire e soprattutto non dire che è un qualcosa che si risolve, essere disposti ad accogliere il loro dolore, magari avvicinarli fisicamente, e poi anticipare e condividere le nostre emozioni di modo che loro sappiano che anche noi potremmo essere più strani e più suscettibili. Ultima cosa ma molto importante: nessuna ricerca vieta di sognare, indipendentemente dalla religione, che il nonno può essere in qualunque luogo il bambino desideri che sia, può essere in un fiore che arriva, in una foglia che cade, in una nuvola, si può sognare, si può parlare, si può mantenere un contatto, essendo però sinceri che non ci sarà più quello fisico. Francesca, senti, cioè come possiamo spiegare ai nostri figli, ai nostri bambini, che i nonni, che di solito sono fra le figure che li proteggono, sono invece in questo momento le figure che devono essere protette da noi? Cioè c'è il rischio in questa inversione, così potremmo dire, dei ruoli, che ci sia qualcosa nella visione dei bambini, soprattutto in quelli più piccoli, che magari può essere compromessa, può andare in crisi, o forse può essere proprio l'occasione buona per insegnar loro che dobbiamo proteggerci a vicenda? Guarda, io ti rispondo in questo modo. Io sono piacentina, sai che è uscita ieri anche l'idea che potessimo uscire in strada con i bambini, e ho postato sia sul profilo della mia organizzazione sia sul mio personale che avrei scelto di non uscire, perché mia figlia, quella di 9 anni, ha avuto un'occasione che io non ho avuto e che tanti di noi non hanno avuto, cioè di provare il senso di comunità e di collettività e di salvare qualcuno potendo fare qualcosa, e solo se tutti lo fanno insieme si avvera. Credo che per noi ci sia una bella occasione di insegnare qualcosa di magico ai nostri figli, che forse potrà davvero cambiare il mondo, e se loro si sentono più responsabili, sì, se cresceranno un po' più in fretta dei figli delle altre generazioni, i bimbi che adesso hanno 8, 9, 10, 11, 12 anni, sì, probabilmente cresceranno un po' in fretta, si responsabilizzeranno un po' di più. Non credo che sia tutto male, ecco, quello che sta accadendo. Francesca, prima ci hai detto che insomma tanti papà vi hanno scritto, come mai secondo te, e la seconda domanda è, noi padri appunto nella comunicazione per esempio di un lutto o di un parente ammalato abbiamo un ruolo particolare, o comunque i nostri figli hanno delle aspettative particolari secondo te? Quello che io ho interpretato, anche se davvero ci è capitato adesso questo boom, però non era qualcosa di frequente, che i padri solitamente demandano un po' più spesso magari alla madre questo lessico emotivo, il linguaggio, la spiegazione. In questo caso quello che è mancato, per cui volevano parole, risposte, è anche il funerale, cioè la ritualità del saluto, una forma condivisa che rende più facile anche la comunicazione. In questo caso non ci sono stati i rosari, quegli eventi in cui ci sono anche altre persone che diciamo aiutano, hanno una strada già fatta, e quindi tanti papà che a loro volta hanno perso il papà si sono trovati più soli, più spiazzati, e per noi sono le prime richieste d'aiuto che ci sono arrivate sono proprio da questi papà con binari meno diciamo determinati rispetto ad altre morti in altre situazioni. Francesca, possiamo o dobbiamo mostrarci tristi, piangere addirittura se ci sentiamo così, cioè possiamo esprimere il nostro dolore oppure vanno tutelati in qualche modo, i bambini devono essere tenuti al riparo? La mia riflessione è questa: allora, tenendo presente che non si smette mai di essere genitori e che l'imitazione che i nostri figli mettono in atto quando ci vedono comportarci è il motore principale dell'apprendimento, che quindi quello che noi stiamo insegnando anche in quel momento è dare una topografia alla sofferenza. Non esiste un genitore che può non piangere, è un genitore che piange magari con più consapevolezza di quanto sarebbe se fosse solo, e magari anticipandolo. Quindi guarda, non so, Mirko, Michele, Giulia, il babbo o il papà è un po' triste, potrebbe capitare che ogni tanto pianga, questo non vuol dire che non posso mai più essere felice, significa che piango perché sento mancanza. E se a te fa un effetto strano vedermi piangere, ne possiamo parlare. Perché i bambini quello che un po' lascia stupiti è vedere soprattutto il papà che piange. Io ho proprio il ricordo di mio padre quando perse il babbo, era la prima volta in vita mia che l'ho visto piangere, mi ha segnato, non so se anche a voi avete questa esperienza. Certo. E Francesca, ti faccio un'ultima domanda, cambiamo argomento. Come Tice, come Centro Tice, centrotice.it, tra l'altro ricordiamo subito il sito, avete attivato anche un progetto, Cicciar Hub. Di cosa si tratta, sì, e cosa state facendo durante questa quarantena? Sono contenta che tu me lo chieda. Allora, Cicciar Hub è un progetto, è un portale in cui i parenti di anziani soli possono iscriversi, e un ragazzo con bisogni educativi speciali formato a chiacchierare, quindi ragazzi con autismo oppure ragazzi con disabilità intellettiva, si formano a chiacchierare con gli anziani e vanno a domicilio a chiacchierare, quindi si prenotano delle ore di chiacchiere con gli anziani soli presso le case di cura oppure a domicilio. E in questo periodo, proprio ieri infatti vi ho mandato la foto, i nostri ragazzi sono stati in collegamento via Skype, quindi alcune infermiere all'interno delle case di riposo hanno dato la possibilità di utilizzare i tablet, e i nostri ragazzi con bisogni educativi speciali hanno potuto parlare con i nonni soli. Fantastico, grazie davvero Francesca, complimenti per le tue parole e anche per questa bellissima iniziativa. Centrotice.it, ricordiamo il sito per tutte le informazioni. Ciao e grazie ancora, buona domenica. Ciao, grazie mille, un abbraccio anche a voi. Ciao Francesca. Noi ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Sto vicino a te. Cosciente strilla attorno, sto vicino a te, fino a che non dormo, sto vicino a te, perché è un mondo sporco, e non cercai sapere, meglio che dormo. Ma che parla ma fa, sempre le stesse cose, lasciando un sogare, e ci contrà ogni voto, e la sua volta è chi, e ci avanza tutte le volte, ma capì. E E questo lo avete riconosciuto ai Padri Eterni, la voce di Pino Daniele, che è sempre una voce che mette i brividi, vero Matteo? Ma sempre, Fede, sempre. Guarda, Pino è uno dei pochissimi cantautori italiani, nonché grandissimo chitarrista, ricordiamolo ogni volta anche questo, perché è stato un vero virtuoso e studioso della chitarra. Dicevo, uno dei pochissimi con cui mi capita questa cosa ogni volta, i brividi. Tra l'altro lui si definiva un chitarrista che cantava, secondo me. Ma sentiamo un po' se i brividi li mette anche a lui, ad Alex Daniele, figlio di Pino Daniele, che è qua con noi oggi ai Padri Eterni. Ciao Alex. Ciao, buona domenica a tutti e grazie anche dell'invito. Mi hai rubato le parole di bocca. Infatti quando parlavate che il mio padre, che si definiva musicista, lui ha sempre detto: io sono un chitarrista che canta. Effettivamente lui ha iniziato, lui voleva solo suonare la chitarra e poi successivamente l'hanno convinto anche ad utilizzare la voce, per dire guarda che tu la devi usare perché è uno strumento. Però lui fino all'ultimo dice: io sono un musicista e farò il musicista finché vivrò. E poi insomma tu l'avrai visto mille volte suonare, ma dava l'idea di uno che proprio che si divertiva, cioè provava gioia nel suonare la chitarra. Ma lui non stava mai senza chitarra, lui si svegliava la mattina e iniziava a studiare in camera da letto con la classica, poi il pomeriggio faceva le sue cose, iniziava a studiare poi con l'elettrica e si spostava, insomma durante le fasi della giornata aveva i suoi posti dove e studiare, fino alla sera, che poi aveva lo studio vicino a casa, scendeva, io lo accompagnavo, andavamo a piedi insieme, facevamo due passi e nello studio poi si divertiva con l'amplificatore, dove lì poteva ovviamente alzare i volumi e via, si passava le ore con i suoi armonici, provava i suoi effetti e suonava, studiava tutto il giorno in realtà, poi per cercare un po' di annullare quella che era la tecnica, perché cercava di con la singola nota, toccando la singola corda, di comunicare una forte emozione solo con una singola nota. Quindi alla fine poi lui comunque si divertiva, anche poi quando stava sul palco, voglio dire, la tecnica la tirava fuori, però io stando certo in studio, quindi riuscendo ad assistere anche alle prove, vedevo che faceva delle cose, cioè pur non essendo io musicista mi accorgevo, dicevo: ma cavolo, cioè, la cosa bella è che poi lui si girava e mi diceva: ma allora sto migliorando, ma te che mi chiedi a me? Alex, il 19 marzo papà avrebbe compiuto 65 anni, il giorno anche della festa del papà e il giorno anche del suo onomastico, però era un 19 marzo particolare quello di quest'anno, quindi hai scelto di celebrare questo compleanno in un modo diverso dagli altri. Ma allora guarda, in realtà sì, quest'anno, perché la ricorrenza dei 5 anni dalla sua scomparsa, quindi diciamo che anche con la Onlus che presiedo c'erano una serie di iniziative che avremmo comunicato appunto il 19 marzo in occasione di un raduno al museo e per ovvi motivi abbiamo per l'emergenza sanitaria annullato il tutto. Non sentivo di fare il solito, diciamo, post celebrativo sui suoi social, perché comunque è una situazione talmente quella che stiamo vivendo fuori dal normale, no? Che dice fare solo un post, c'era qualche cosa che mi spingeva a dover fare qualche cosa. Era una sensazione strana, perché dice: possibile che, voglio dire, fare poi un post non è che ci vuole chissà quale attitudine particolare, no? Vuol dire, basta un video, basta. Però quest'anno invece non era così. Sentivo l'esigenza di dover fare qualcosa in questa situazione, di dover dare un contributo. Forse, non lo so, mi verrebbe da dire quasi un po' guidato da lui, insomma, io che credo fortemente poi che la vera vita sia dopo, non sia questa sulla terra, però vuol dire, questo è poi un altro discorso, e quindi mi sentivo di fare qualcosa in più, ma è nata il giorno prima questa cosa, e da lì ho visto tra le varie notizie che stava accadendo qualche cosa a Napoli, che ancora una volta era centro di ricerca della nascita di qualche cosa di importante, e allora lì mi è venuto l'idea, ma puoi vedere che forse devo fare qualcosa per aiutare la ricerca sulla sperimentazione di questo nuovo farmaco, che guarda caso parte da Napoli, dalla sua città. E allora ho detto: forse è più importante una cosa del genere che in qualche modo con la fondazione che porta il suo nome è un modo forse ancora per dire che è presente, che c'è, io ci sono, sono lontano fisicamente ma sono ancora nella memoria storica della città, quindi come è accompagnato la vita di molte persone, no? Di generazioni, ancora oggi in questo momento storico la sua musica, la sua presenza c'è e accompagna questo momento e può fare qualcosa. Cioè, in un momento in cui siamo tutti costretti a dover rimanere chiusi, la musica mantiene quel potere di aggregazione al di fuori di un confine fisico e quindi magari può aggregare la mente delle persone, no? Per qualche cosa di, per restare uniti in qualche cosa di importante, perché va bene, va benissimo, diciamo, aiutare quelle che sono le strutture ospedaliere in questa fase di emergenza è fondamentale, ma non si può, secondo me, prescindere da un lavoro di ricerca scientifica sul farmaco e su quelle che poi sono le possibili cure, no? Certo, e quindi ho pensato di appoggiare l'iniziativa del dottor Ascelto e ho fatto chiamare tramite la mia partner, diciamo, dei progetti, la Open Onlus, con Anna Maria Alfani, fatto chiamare il direttore proprio dell'Istituto Pascale, il dottor Bianchi, che era subito, insomma, accolto l'iniziativa, e insieme abbiamo trovato il nome, perché abbiamo detto: perché non diamo un nome a questa iniziativa? Allora ha detto: sì, ma che dici, facciamo questa, quell'altro. C'era l'idea, vogliamo chiamarlo Esho Yorn, che è un po', diciamo, dà un po' l'idea di qualche cosa di propositivo, dice: ma perché noi sto vicino a te? Ah, è subito, beh, allora lì è partita la... Ma questo parliamo del giorno prima, quindi abbiamo subito iniziato, cioè il giorno prima per il giorno dopo. Alex, io cioè, te lo devo assolutamente chiedere, cioè che cosa rappresenta a Napoli per un napoletano, ma potrei dirti in Italia e nel mondo, essere figlio di Pino Daniele? Perché la sensazione è che sia proprio un artista per il quale più passano gli anni più l'affetto cresce. L'affetto sì, cresce. Adesso io voglio dire, come fai a spiegarlo? A me a volte sembra che cercare di spiegare a parole dei sentimenti, delle emozioni è un po' come quasi sminuirle, come non darle il peso. Sono delle cose talmente intime che non riesci a... Qualunque io cosa cerchi di dirti, comunque sarebbe come sminuire quello che sento dentro. È chiaro che è un grande valore, un grande onore, un grande... è difficile, come dicevo, è difficile spiegarlo. Ascolta, ti aiuto io allora con un'altra domanda, quantomeno lo spero, no? Tuo padre era un grandissimo chitarrista, tu invece, ho scoperto, sei un ex cuoco. E tuo padre ti telefonava e ti chiedeva come si fa questa, quell'altra ricetta, il ragù, la carne alla genovese, sì, eccetera. È un'immagine tenerissima, ti racconti questo? Guarda, è divertente, perché noi, avendo lavorato per tanti anni insieme, quindi le telefonate giornaliere erano almeno una decina, che andavano dal: allora hai sentito i musicisti, ci organizziamo le registrazioni, il live, la logistica, il prossimo progetto. Magari in mezzo alle telefonate: senti, ma mi ricordi come, se tu nella pasta e fagioli ci mettevi la cipolla, se ci mettevi... Perché a lui piaceva cucinare alcune cose, nel senso poche cose, ma quelle che gli ricordavano poi i sapori della sua terra, di Napoli. Io poi, certo, è vero, sì, ho studiato cucina, ma sono andato a specializzarmi sulla cucina ovviamente napoletana, e quindi i sapori, proprio quelli che quando era lui piccolo, il ragù fatto in un certo modo, la genovese fatta in un certo modo, e quindi lui era contento di questo e cercava di captare quelli che erano i metodi, quindi alcune cose le cucinava anche lui. Ricordiamo il sito della fondazione, che è pinodanieletrustonlus.org, anche per la raccolta fondi, oppure openonlus.org, appunto l'altro sito partner di questa iniziativa. Ma con la fondazione, Alex, in passato, adesso ovviamente no perché le scuole sono chiuse, ma sei andato a raccontare proprio negli istituti superiori la figura di tuo padre, vero, ai ragazzi? Allora, com'è stato? Guarda, è una cosa bellissima, è una cosa che faccio ancora oggi, perché insegno al Conservatorio di Milano, Giuseppe Verdi, e vi insegno, sì. Sono docente e vi insegno strategia e progettazione dello spettacolo e di prodotti discografici, quindi ho modo, diciamo, sempre di parlare ai miei ragazzi. Io per esempio ho finito mezz'ora fa le lezioni online proprio con loro, perché non potendo andare a Milano, però comunque continuiamo tutti quanti i docenti a eseguire le nostre lezioni online, io mi collego e io continuo a tramandare anche una metodologia di lavoro. Io però sono contentissimo perché nello spiegare come si realizza un prodotto discografico, dalla registrazione all'ideazione, io gli faccio vedere dei video che ho realizzato durante le fasi di registrazione, video che non trovate online perché sono miei privati, realizzati con macchina fotografica, con video, e quindi loro, cioè, con gli occhi sgranati si vedono Pino che spiega a Steve che è della batteria come vuole il tempo, il modo in cui registrano. Quindi insegno anche un po' tutta una serie di valori, di metodologie utilizzate insomma con lui in tanti anni, ed è molto bello rivedere, vedere questi ragazzi che alcuni conoscono solo di nome mio padre, non conoscono, voglio dire, quelle che erano le peculiarità artistiche. Dicevano sì, conosciamo i brani di punta, la Culè quando, Il Soppazza quando chiove, ma poi quando inizia a dire i musicisti, c'è tutta la serie di collaborazioni musicali, musicisti con cui ho collaborato, e loro dicono ah, ma come, con questo o quello iniziano ad ascoltare i brani, insomma è fantastico vedere questo entusiasmo dei ragazzi nello scoprire la sua musica e di scoprirlo musicista prima di cantante e cantautore, nonostante comunque abbia scritto delle poesie meravigliose. Vedere riscoprire la musica poi all'interno dei conservatori è meraviglioso, insomma. Alex, grazie davvero per aver condiviso queste parole, questi pensieri, queste suggestioni con noi. Pino Daniele, trustolus.org, ricordo ancora il sito per questa importantissima raccolta fondi. Bocca al lupo per tutto e insomma continua a raccontare ai giovani, ai ragazzi, ai nostri coetanei chi è Pino Daniele. Ciao, buona domenica. Grazie, buona domenica anche a voi, ciao. Tempo scaduto, è il momento dei saluti. Un grazie a Danilo Di Trani che con noi ha scritto la puntata, un grazie a tutta la squadra di Radio 24, un grazie anche a Radio Immaginaria per il supporto. Matteo, come sempre ci ritroviamo qua domenica prossima alle 11, buona settimana. Buona settimana a te, Fede. Vi ricordo ancora il nostro sito radio24.it, da dove scaricare e riascoltare il podcast. Ciao a tutti. Ciao.